sette le stelle dell'orsa maggiore, sette le note della mia chitarra, sette le notti che il mandorlo infiore ascolta tra i fiori il canto del mio cuore. Timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dir qualcosa, ma non osa, non osa, non osa. Timida è la bocca tua, timida come un bel fiore, mi vorrebbe dir qualcosa, ma non osa, non osa ancora. Coraggio amore mio, dischiudi il tuo balcone, ti avrò coraggio anch'io. Ti dirò quel che sento per te, quel che sento per te, quel che sento, ma timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dir qualcosa, ma non osa, non osa ancora. Canta tra i rami un dolce usignuolo, segue le note della mia chitarra. Timidamente gorgheggia una solo, cantando alla luna, finebria come me. Amore mio, dischiudi il tuo balcone, che avrò coraggio anch'io. E ti dirò quel che sento per te, quel che sento per te, quel che sento. Ma timida è la serenata, timida come il mio cuore, ti vorrebbe dir qualcosa, ma non osa, non osa ancora. Coraggio amore mio, dischiudi il tuo balcone, che avrò coraggio anch'io. E ti parlerò da...